Salvadanaio di Deborah Rosciani. Giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salvadanaio. Un ascoltatore ci ha scritto poco fa: fate bene a parlare del caro benzina, tanto prima o poi scenderemo tutti in piazza. Salutiamo Fabrizio, il primo ascoltatore che ci ha scritto questa mattina, perché abbiamo anticipato nel giornale radio del tema del quale parleremo. Per la verità lo abbiamo rimandato per un po', ma quando abbiamo notato che ormai questa corsa inarrestabile del costo del carburante era destinata proprio a non fermarsi, proprio perché è inarrestabile per l'appunto, abbiamo ritenuto opportuno di dedicare a questo argomento anche una puntata di Salvadanaio. Un litro di verde viaggia di record in record verso ormai la soglia prossima dei 2 euro al litro, mentre anche il gasolio continua a registrare nuovi massimi, numeri mai visti prima, neanche attualizzati ai tempi della crisi petrolifera dell'austerity. I picchi a livello territoriale sono molto alti, arrivano a 1,96 euro appunto per la benzina nelle regioni del centro e a 1,80 euro per il gasolio in quelle del sud. Per gli automobilisti non c'è scampo, considerando che il costo per fare il pieno lievita di giorno in giorno. Secondo le associazioni dei consumatori, abbiamo una stima di Adusbef e Federconsumatori, ma tutte le altre hanno quantificato quanto costa tutto questo alle tasche degli italiani. Rispetto all'inizio dell'anno si spendono ogni mese 18 euro in più per fare il pieno. Per questo le associazioni dei consumatori tornano con forza a chiedere un intervento per alleggerire il carico fiscale, perché fondamentalmente il problema è tutto lì, il carico delle accise. Parla di emergenza nazionale il Codacons, che come unica soluzione vede quella di lasciare la macchina a casa, considerata ormai unica arma di difesa contro il caro carburante, quindi non accendere neanche il motore. Tra l'altro, questione che abbiamo affrontato anche la settimana scorsa, teme l'effetto valanga sulla spesa la Coldiretti, che ricorda come l'Italia sia un paese dove l'88% delle merci viaggia su strada. Benzina, trasporti e logistica incidono complessivamente per circa un terzo sui costi della frutta e della verdura. Noi oggi però ci soffermeremo fondamentalmente sulle abitudini di utilizzo dell'auto delle famiglie italiane e vi chiederemo come fate a risparmiare sul pieno. C'è ben poco da fare se l'uso dell'auto per andare al lavoro, per svolgere le normali mansioni quotidiane, non ha alternative. Allora dove si va a caccia di risparmio? Distributori no logo, distributori situati nei centri commerciali, sconti delle insegne più rinomate grazie alle carte fedeltà. Che cosa fate? Condividete l'auto. Poco fa ci ha inviato una mail anche il gruppo di postinauto.it, che è una organizzazione che si occupa appunto di coloro che per risparmiare condividono l'utilizzo dell'auto, una prassi che è ormai utilizzata da sempre un numero maggiore appunto di viaggiatori. Vi do qualche cifra: 100.000 posti auto condivisi ormai stabilmente, oltre 20.000 passaggi disponibili, più 138% di crescita delle offerte di passaggio degli ultimi 12 mesi, per cui in molti si sono organizzati per affrontare il caro carburante. Noi oggi abbiamo messo insieme un bel parterre di ospiti per discutere di tutto questo. Ringrazio e saluto Carlo Pileri, presidente dell'ADO, che quindi abbiamo la rappresentanza delle associazioni dei consumatori. Presidente, buongiorno. Buongiorno, salve. Buongiorno e grazie anche a Giorgio Moretti, segretario nazionale della FIGISC, la Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti aderenti a Confcommercio. Segretario, buongiorno. Buongiorno a voi. Abbiamo con noi anche Giovanni Mazza, responsabile carburanti di Auchan, che come saprete bene è un'insegna molto nota della grande distribuzione che si sta cimentando da qualche anno, non senza difficoltà, nella costruzione di impianti di distribuzione di carburante nelle aree commerciali appunto occupate. Mazza, buongiorno anche a lei, benvenuto. Buongiorno. Tutti. E poi per chi invece di carburante non vuol sentir parlare in termini di benzina o di diesel e vuole alimentare la propria auto con alternative diverse, appunto sentiremo stamattina anche Corrado Storchi, responsabile delle relazioni esterne di Landi Renzo, che è una società leader mondiale appunto nel settore dei componenti nei sistemi di alimentazione alternativi a GPL, metano per autotrazione, per cui chi vuole fare questa scelta effettivamente per le famiglie che vogliono convertire l'impianto di alimentazione del dell'auto è una scelta giusta, quanto costa, quanto fa a risparmiare. Raccontateci la vostra esperienza, quanto vi costa in più un pieno di auto, un pieno di carburante della vostra auto rispetto a 2 mesi fa, 6 mesi fa, 1 anno fa? Raccontatecelo all'800 24 00 24. Se volete intervenire in diretta potete anche scriverci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it e potete anche andare a trovarci su Facebook, siamo all'indirizzo salvadanaio-radio24. È qua davvero divertente oggi l'immagine a rappresentazione del nostro argomento che hanno messo i miei assistenti Marco Lombardo e Laura Faggine, che ieri ci ha aiutato in redazione. Un benzinaio con una pompa di benzina in mano che praticamente tira su l'erogatore e praticamente c'è il cliente di fronte a lui che alza le mani in segno di resa, proprio come se fosse un'arma, una pistola. Un'immagine molto divertente e forse anche abbastanza rappresentativa della situazione. Presidente Pileri, l'Associazione dei Consumatori, ormai i viaggiatori devono alzare le mani in segno di resa, devono riporre l'auto in garage, non usarla, ma insomma che cosa dobbiamo fare per fronteggiare questa spesa che è diventata insostenibile? Già non riusciamo più a riempire il carrello della spesa in termini direi dignitosi, adesso dobbiamo arrenderci anche al carburante, siamo ritornati indietro di 30 anni. Presidente, che succede? Ma sì, che siamo tornati indietro di 30 anni l'abbiamo visto anche dai dati che sono usciti nei giorni scorsi sul calo della spesa, e quindi purtroppo questo è preoccupante. Per quanto riguarda l'auto, ci stanno dei cambiamenti pesanti da parte delle famiglie italiane. Intanto si acquistano meno auto, le aziende produttrici di auto e i concessionari sono in grave crisi, e ci sono anche situazioni in cui vengono messe in mobilità il personale proprio perché le auto si acquistano meno e chi ha l'auto tende ad usarla meno. Auto in garage sicuramente utilizzabile quando ci sta un'emergenza o per la gita domenicale, però nei percorsi quotidiani si cercano mezzi alternativi o si fanno quegli accordi tra vicini di casa per recarsi nel posto di lavoro assieme. Questo del resto può anche essere visto come un meccanismo di miglior gestione del traffico nelle nostre città, però per quanto riguarda le abitudini delle famiglie questo è sicuramente un cambiamento di regime pesante. E a proposito di dati che venivano forniti prima, ma teniamo conto che chi vuol fare un uso dell'automobile regolare va a fare un paio di pieni al mese, vuol dire che spende oltre 2.100 euro all'anno di carburanti, con un aggravio di spesa di 432 euro in più rispetto all'anno scorso, tenendo conto dei 18 euro in più a pieno. E questo diciamo non è irrilevante nel momento in cui poi ci sono anche un aumento di tutte le altre spese, prima fra tutte quelle infatti, dell'alimentazione. Esattamente, perché l'aumento del carburante ha una ricaduta su tanti altri fronti, non ultimo, come dicevamo, quello del carrello della spesa, perché trasportare le merci costa e di conseguenza gli aumenti si vedono anche lì. Allora, Giorgio Moretti, segretario nazionale della Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali e Carburanti, abbiamo anche imparato in questi mesi, visto che molti giornali si sono cimentati anche nella spiegazione a tutti noi consumatori di come si verificano, di come si manifestano appunto questi rincari di carburanti, abbiamo imparato a non prendercela più con voi distributori, perché effettivamente il beneficio di questi aumenti non va a finire sicuramente nelle vostre tasche, lo spiegano molti giornali anche in questi giorni. Come state fronteggiando questa situazione con la clientela, con le famiglie, con i viaggiatori? Moretti, ci racconti un po' il punto di vista del consumatore dal vostro punto di vista. Io credo che la situazione generale è ben presente a chiunque sta ogni giorno sul piazzale, quindi voglio dire la disperazione della gente, che però è anche disperazione del gestore, perché il prezzo che aumenta anche nel momento in cui il gestore acquista la benzina. Direi che se dovessimo sostituire quell'immagine di cui parlava lei, dovremmo metterci quell'altra in cui c'è il gestore che si mette la pompa alla tempia. Perché è vero, avevamo trovato anche quella, ma in effetti corrisponde molto ad una situazione in cui già la crisi economica, già la difficoltà delle famiglie, pesa questa situazione che è data in realtà da fattori che sono tutti endogeni. cioè il problema della fiscalità. Lei pensi che lo scorso anno, con i vari aumenti che ci sono stati, e l'aumento complessivo che si è sentito poi sul prezzo è stato dovuto in buona sostanza all'oltre l'80% dell'aumento delle imposte e solo al 20% dall'aumento dei prezzi internazionali. Quest'anno, a partire dal gennaio del 2012 e fino a questi giorni, ad attaccare invece purtroppo la borsa degli italiani o il portamonete degli italiani sono le tensioni del mercato internazionale. La risultante è che negli ultimi 14 mesi e mezzo abbiamo avuto 38 centesimi di aumento al litro per la benzina e 42 per il gasolio, quindi un 26% in più per il primo prodotto e quasi il 31% per il secondo. E infatti, il dato complessivo che ha fatto schizzare l'inflazione è la voce che pesa di più sull'indice dei prezzi al consumo. Sì, esattamente. E quindi insomma la situazione anche per voi piuttosto complessa, perché ci sono sempre meno auto che vi vengono a trovare, che naturalmente poi certo sarà anche un gran beneficio per le città che respirano di più se l'auto si usa di meno. Ne beneficiamo anche in termini ambientali, meno anidride carbonica, meno smog e quant'altro, però ribadisco, non tutti possono drasticamente cambiare le abitudini quotidiane, perché c'è chi abita anche nell'Interland e magari le città sono mal collegate dal punto di vista dei mezzi pubblici, altro grande problema, perché se si sopperisse a quello magari potremmo risolvere anche quello dell'auto. Comunque insomma la ricaduta è complessiva e per le famiglie la difficoltà è enorme. Stupisce il dato che ci dava prima il presidente Pileri, oltre 430 euro in più all'anno per fronteggiare l'aumento del carburante e quindi per fare il pieno. Voi pensate, può corrispondere ad una rata di un mutuo che quindi a fine anno la famiglia si troverà a dover affrontare, insomma tante limitazioni che naturalmente diventano difficili. Faccio fare una battuta solamente a Giovanni Mazza, anzi siccome devo andare in pausa già tra un minuto non lo faccio iniziare per niente, dottor Mazza avrà pazienza, poi gli faccio dire la sua con Storchi di Landi Renzo. Volevo sentire subito gli ascoltatori perché le testimonianze questa mattina vanno dritte in pancia e ci piacerebbe sentirne quante più possibili. Marco da Bari, buongiorno. Buongiorno. Come si difende dal caro carburante? Sono uno dei tanti che vive in auto, soprattutto per lavoro. Certo. E come tanti non posso prescindere da un motore acceso e dalle ruote che girano. Purtroppo di difesa non c'è un granché da fare, se non un piede più leggero sull'acceleratore, quando possibile alternarsi l'uso delle macchine con colleghi, compagni e quant'altro. Però forse la cosa migliore che predico da tempo è che un po' tutti abbiamo una volta tanto il coraggio di fermare questi motori per 7 o 10 giorni e mettere un po' in ginocchio questo sistema, perché non è assolutamente normale questi aumenti pressoché ingiustificati. Tra l'altro il metano sicuramente è una bella soluzione, farebbe camminare molto e con più economia, ma guarda caso corrisponde all'aumento di carburanti in generale, corrisponde anche all'aumento di metano nonché di GPL. Guardi, poi, sa che questa è una provocazione e poi Marco adesso la lascio concludere, che volevo proprio lanciare a Storchi. Io prima, il rappresentante di Landi Renzo, questa società che si occupa proprio di questo settore, prima lo dicevamo a microfoni spenti, dico non è che adesso ci convertiamo tutti a metano e poi succede come per il diesel, che prima aveva una forchetta appunto di differenza con la benzina tradizionale enorme e invece tranquillamente anche il diesel si è ha raggiunto appunto quasi le stesse quotazioni della benzina tradizionale, giusto Marco? In Italia in quanto tale succederebbe sicuramente questo. Va bene. Marco, continui a mantenere il piede sull'acceleratore poco spinto naturalmente, anche perché questa è una buona prassi che sicuramente manterrà un elevato livello di sicurezza della sua guida e poi chiaramente se porta a casa anche qualche euro di risparmio male non fa. Molti altri ascoltatori hanno scritto che utilizzano la stessa metodica di risparmio, si viaggia in media appunto ad una velocità inferiore rispetto alle abitudini tradizionali. Andrea ci dice anche peraltro risparmio anche eventuali multe. Edo dice pedalo, e però non per tutti è possibile. La benzina che costa sempre di più e rende davvero un incubo recarsi dal benzinaio per fare il pieno, perché qua di giorno in giorno sperimentiamo un costo ulteriore. Il pieno costa sempre di più da una settimana ad un'altra, un trend inarrestabile che ormai è iniziato da mesi per tante ragioni, per questioni legate all'andamento dei mercati internazionali, la tensione. Il petrolio tutto sommato sta sui $100 al barile, quello a New York leggermente al di sopra. Negli ultimi mesi, per la verità, il rincaro è arrivato a causa di accise aggiuntive che i governi passati, ma anche l'ultimo, hanno appunto applicato per fronteggiare la crisi, per cui il carico fiscale è enorme, che non è una voce incomprimibile appunto nell'ambito del costo complessivo del carburante. Pertanto le poi tensioni internazionali si ripercuotono appunto a valanga, quella voce lì non si può ridurre e ne paghiamo le spese tutti noi. Come possiamo fare per risparmiare? Stamattina abbiamo messo insieme un po' di ospiti che, oltre a commentare la situazione complessiva, cercheranno di darci anche una mano per capire cosa fare. Qualche ascoltatore anche ci ha dato delle buone idee, sono suggerimenti di buon senso che naturalmente tutti conosciamo, soprattutto per chi viaggia molto. Ovviamente il primo suggerimento da dare è quello di premere un po' meno il piede sull'acceleratore, e per fortuna che in molti hanno preso anche questa abitudine, ne va anche della loro sicurezza. Detto questo, ci si può recare anche se poi lì vorrei sentire i gestori tradizionali che cosa ne pensano, nei grandi centri commerciali che sono riusciti in molte aree ad installare, insediare e costruire impianti di distribuzione di carburante senza marca. Non ci sono le insegne famose. Sentiamo qual è stata in questo senso l'esperienza di Auchan, un'insegna molto nota della grande distribuzione. Giovanni Mazza, buongiorno, ci eravamo già sentiti sempre su questo argomento anche in passato. Ci dice quanti centri siete riusciti ad aprire nei vostri centri commerciali? Beh, ad oggi abbiamo 40 distributori in servizio. L'ultimo ha aperto questo mese proprio ad Ancona, quindi a casa sua. Proprio ad... Peccato che non mi possa rifornire, perché io abito qua, dove invece non ne trovo, perlomeno nella zona dove abito. Senta, ci dica subito quanto risparmio riuscite a praticare in questi distributori. Andiamo dai 10 ai 15 centesimi al litro. Per darle un'idea, sempre ad Ancona, ultimo nato, oggi vendiamo il diesel a 1,6,29, quindi rispetto alla cifra che diceva lei c'è un bel 15 centesimi. Come fate a fare questa proposta ai consumatori, alle famiglie, ai viaggiatori, ai clienti poi del centro commerciale, che chiaramente fanno tutta un'unica spesa, il carrello della spesa, riempiono e poi riempiono anche il serbatoio dell'auto? Applichiamo la classica ricetta dell'ipermercato e quindi teniamo i nostri costi al minimo, quindi siamo un'attività per noi low cost. Abbiamo dei centri che sono in grado di erogare fortissimi volumi e marginiamo, quindi ricarichiamo il prodotto molto poco. Per arrivare a un prodotto che sia molto competitivo per il cliente, di assoluta qualità. È stata un'idea vincente, Mazza, questa? I consumatori, io temo che lei non potrà dirci il contrario naturalmente, hanno mostrato di apprezzare un'iniziativa di questo tipo. Si chiedono come mai non c'è un'insegna nota di carburante, ma c'è, come dire, il marchio Auchan. Poi non so che tipo di marchio mettiate voi nei vostri distributori. Noi mettiamo sempre il marchio Auchan, talvolta lo accomuniamo alla petrolifera che ci consegna il prodotto, quindi Tamoil per esempio, o Eni. I consumatori sono, per fortuna devo dire, molto contenti, lo dimostrano le cifre. Abbiamo venduto l'anno scorso 200 milioni di litri, quindi abbiamo un erogato per impianto che è 6-7 volte un erogato mese. Senta, mi dica, ma quale difficoltà avete trovato, se ne avete trovate appunto, di insediamento sul territorio di distributori di carburante nei vostri centri commerciali? Perché so che comunque non è facile farlo, diciamo, nelle aree che voi scegliete, per cui bisogna essere coerenti anche da questo punto di vista. E poi, come vi siete posti rispetto all'altro grande problema di cui in Italia si parla da tempo, che come dire, c'è questa denuncia secondo la quale il numero di benzinai in Italia è molto elevato, sono oltre 24.000 i distributori appunto nel nostro paese contro i 15.000 in Germania e 12.000 in Francia. Avete avuto vita facile? Allora, oggi la difficoltà è una difficoltà fondamentalmente burocratica. Nel 2009 il governo, sotto pressione dell'Unione Europea, ha sostanzialmente tolto i vincoli peggiori, quindi oggi il problema è di ordinaria burocrazia, che è complicato. Per darvi un'idea, in un comune normale un distributore richiede qualcosa come 10 diversi pareri. Se andate in una grande città come Roma ne servono da 18 a 30. 40, infatti, io avrei detto 40, ma insomma siamo un po' meno, è il doppio. Veramente complicato. Per cui avete anche per questo motivo scelto solo determinate città, non è che potete fare una distribuzione a pioggia, ovunque vogliate andare potete farlo tranquillamente. No, noi vogliamo andare ovunque ci sia il parcheggio di un Roshan, quindi da Palermo a Cuneo ci siamo, dove non ci siamo stiamo lavorando per arrivarci, se è possibile il prossimo lo apriremo per esempio davanti a Roma con Latina, già finito, pronto, aspettiamo che l'ultimo timbro sia messo sulle carte. Mazza, grazie. Moretti, torno a lei, ai gestori tradizionali di impianti di carburante. Il centro commerciale con il distributore di benzina sta al piccolo distributore, al distributore tradizionale, proprio come il grande centro commerciale sta al piccolo negozio nella città. Vi dà fastidio questo fenomeno, insomma, come vi ha posto, anche se dobbiamo riconoscere che il risparmio che riescono a praticare è oggettivamente consistente, almeno in questo momento. Ma il problema non è il fastidio, il problema sono diverse condizioni, ovviamente di scala economica, e un diverso rapporto con quella che è la filiera complessiva della distribuzione dei carburanti in Italia. La possibilità per la grande distribuzione di realizzare impianti non è né più penosa né più difficile di quella di qualunque altro operatore. E la possibilità di fare risparmi è data da alcune economie di scala e dal fatto che comunque i problemi della logistica e della raffinazione non toccano questi operatori terzisti, e quindi chiaramente questo significa un indubbio considerevole vantaggio di natura economica, e i volumi poi chiaramente aiutano. In ogni caso, voglio dire, il cash flow che viene fuori dal portarsi vicino questo importante fonte di spesa degli italiani è comunque un elemento importante per l'economia di questi centri. E in realtà poi, se poi andiamo a vedere, se noi confrontiamo le grandi differenze nominali, quelle sui prezzi nominali, sui listini di cui si parla sempre nei giornali, le differenze sono anche notevoli, ma se noi guardiamo bene nei conti, quelli che fa il Ministero, e valutiamo quella che è la differenza di prezzo tra offerte, selfizzazioni, cose varie, la differenza vera tra i no logo, chiamiamoli in senso generale, e la rete colorata tradizionale poi si riduce, cioè le differenze poi sono i 5, i 6 centesimi, non più i 10, non più i 12, quindi l'italiano che cerca, l'automobilista che cerca, voglio dire, trova sul territorio, anche nella rete tradizionale, una serie di offerte notevoli che abbassano notevolmente i prezzi. Ma io devo dire, guarda, che ho il mio distributore di benzina che sta proprio attaccato a casa, con il quale ormai ho fatto amicizia, chiaramente mi affido a lui perché ormai conosce la mia auto, mi dà il servizio, mi pulisce il vetro, mi controlla le gomme, mi fa tante altre cose che chiaramente un po' mi fanno digerire un po' più volentieri anche il pieno di benzina, che è sempre più costoso e che patisce effettivamente anche lui, quindi anche questi aspetti qualche volta dobbiamo considerarli, ma non sempre ce la facciamo. Io ho questa opportunità perché abito vicino a questa persona, ma non è che tutti poi abbiano l'opportunità di fare amicizia col benzinaio, non è che me la regali poi, tra l'altro, mi regala altro. Andiamo a sentire un po' invece il metano, che cosa dobbiamo fare se vogliamo convertirci a questa alimentazione più pulita e sicuramente meno costosa. Saluto Corrado Storchi intanto, buongiorno, Landirenzo SPA, buona giornata. Buongiorno a lei e sugli ospiti che in ascolto. Le faccio sentire che cosa ci vuole raccontare Paolo da Bologna e poi lo commentiamo insieme. Paolo, buongiorno. Buongiorno, salve. Innanzitutto i complimenti per la trasmissione. Guardi, io sono passato al metano più o meno da un annetto. E è una cosa che veramente consiglio a tutti e continuamente penso che non tornerò mai più alla benzina. Quanto le è costata la conversione dell'auto a questo impianto? Perché ho comprato una macchina usata a metano. Ho capito. Sì. Comunque, insomma, un investimento ha dovuto farlo, ma in ogni caso magari era nel momento della sua vita in cui il cambio dell'auto doveva farlo e quindi ha fatto una valutazione e ha scelto questo tipo di alimentazione. Che ho comprato, è stata la prima e ho deciso di fare questa scelta. Insomma. Quanto le costa un pieno, che comunque non va a litro ma a chilo, se non sbaglio? Allora, un pieno più o meno sui 12-13 euro e ci faccio 270 chilometri circa. Vabbè Paolo, ci ha convinto tutti quanti, solo che adesso non possiamo andare tutti in blocco a cambiare il nostro impianto di alimentazione. Buona giornata e grazie ancora. Storchi, ha sentito, quante famiglie stanno facendo questa scelta in questo momento? Avete un monitoraggio su di questo tipo? Sì, beh, innanzitutto ringrazio Paolo per l'assist che potrei... Ha fatto un bello spot pubblicitario. Questo, esatto. Ma allora, dobbiamo considerare che negli ultimi 3 anni addirittura oltre 1.300.000 persone in Italia hanno fatto questa scelta, è veramente un numero altissimo. Ovviamente mi riferisco sia all'acquisto di auto nuove, ecologiche, sottolineo questa parola, quindi GPL e metano, che alla conversione di auto che erano già su strada. Quindi, ripeto, 1.300.000 persone hanno fatto in questi ultimi 3 anni questa scelta. Il problema è che però queste famiglie, poi dopo parliamo della convenienza, le faccio fare anche qualche calcolo a parità di cilindrata di auto, insomma quanto si risparmia se la alimentiamo a metano piuttosto che a benzina, però il vostro problema è che non avete tanti distributori sul territorio. Ma allora, no, di metano. Molte famiglie si lamentano necessariamente di questo, è una condizione oggettiva. Indubbiamente esiste una condizione differente tra GPL e metano. Le stazioni GPL in Italia sono circa 2.800 e sono distribuite in tutto il territorio nazionale, per cui con quel tipo di carburante alternativo non ci sono grandi problemi di rifornimento. Non è esattamente la stessa la situazione per quanto riguarda il metano, ci sono circa 850 distributori in Italia, ma sono concentrati in alcune regioni del centro-nord. E per quanto riguarda il Sud Italia, diciamo, c'è un certo numero solamente in Campania e in Puglia, quindi è evidente che c'è anche una domanda non raccolta di automobilisti che vorrebbero un'auto metano ma non hanno la stazione di rifornimento vicino a casa. E quindi sono scoraggiati nel fare questa scelta anche se l'avessero meditata. Ci state scrivendo davvero in tanti oggi, sia al 349-238-6666 che sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24, e state prenotandovi anche in tanti all'800-24-0024. La protesta, la contestazione, il disagio è unanime, naturalmente il pieno di benzina è diventato veramente un investimento e prima di andarlo a fare forse bisognerebbe andare in banca a farsi fare un prestito. Non vorrei esagerare, ma la tendenza è questa, sta diventando davvero pesante. Presidente degli ADOC, dell'Associazione dei Consumatori, quantificava in qualcosa come 430 euro in più in un anno di spesa per riempire il serbatoio. Poi chiaramente dipende anche dall'auto che abbiamo, dal tipo di cilindrata e quant'altro, e anche dalle nostre abitudini. Questo è un dato medio, per cui ci sono anche dei picchi molto più alti e quindi ci preoccupiamo senz'altro. Vorrei sentire Stefano dalla provincia di Pisa, che si sentiva un po' frustrato per il fatto che io non nomino mai una certa categoria di lavoratori che patisce molto questo aumento dei carburanti. Stefano, buona giornata. Buongiorno a voi. Praticamente la categoria è quella degli agenti rappresentanti. Che viaggiano molto, no? Giustamente. Dove l'effetto carburante pesa quasi al 100% del nostro impegno giornaliero. Anche perché magari male. Qualche azienda restituisce, ma altre no. No, generalmente il lavoro professionale è quasi tutto sulle spalle del professionista, certo. Che per un effetto proprio strano, con la compressione delle vendite, quindi si vende di meno, si deve girare molto di più per riuscire a fare gli obiettivi che le aziende ti impongono di fare, e naturalmente non c'è nessuna possibilità di adeguare, come fanno per esempio certe categorie che consumano molto carburante, possono inserirsi, diciamo, aumentare i loro cachet, i taxi aumentano, che so, l'importo della corsa, del trasporto, cioè. Noi siamo sottoposti a doverlo subire al 100%. Poi un'altra cosa da considerare, questo è un effetto magari potremmo anche decidere di non avere, ma l'effetto immagine per un venditore è giustamente tutto. Stefano, ma ci mancherebbe altro. Non ci vedono magari di buon occhio perché siamo vestiti magari in maniera adeguata, abbiamo macchine che in qualche maniera stanno a significare anche la bontà del nostro lavoro, quindi siamo schiacciati in questo momento veramente da tutte le parti. Certamente, Stefano, in bocca al lupo a lei come a tutte le altre categorie professionali che per lavorare devono viaggiare molto, e ne abbiamo parlato prima, io ho parlato di appunto lavori che impiegano necessariamente l'auto tutto il giorno, non ne ho parlato di singole categorie professionali, ma chiaramente ci riferivamo un po' a tutte. Carlo Pileri, presidente di ADOC, voglio fare un'altra chiacchierata con lei, un minuto, poi vorrei sentire anche, se ce la faccio, un ultimo giro gli altri ospiti. Allora, che cosa dobbiamo fare per risparmiare? Lei che cosa ne pensa di questa questione legata al fatto che tutto sommato abbiamo una rete di distributori assolutamente irrazionale, perché sono troppi, è vero, abbiamo un territorio anche molto strano noi, dove magari per interi chilometri non troviamo un distributore di carburante neanche a pagarlo oro, e aree che invece sono estremamente fornite, quindi è una rete tutto sommato forse più che essere ampia e inefficiente. Ma io sono un po' in controtendenza con i miei colleghi delle altre associazioni. Io credo che più distributori ci siano, più concorrenza dovrebbe esserci, e poiché anche il nostro paese ha un'abitudine diversa da quella della Germania e della Francia. Lo diceva lei prima, la chiacchierata col distributore sotto casa. Ma è questo, il distributore come il tabaccaio, come il bar sotto casa, sono anche un momento di socializzazione, si scambiano due chiacchiere, conosce le nostre abitudini, ci pulisce il vetro, sa cambiare, sa quando dobbiamo cambiare l'olio. È una risorsa in più che noi abbiamo e quindi non la vedo come un elemento negativo. Come non credo neanche che la soluzione sia quella di mettere solo i distributori presso i centri commerciali, perché vorrebbe dire anche questo togliere una potenzialità che abbiamo di una rete invece molto più diffusa e molto più concorrenziale. Il problema è un altro, è quello che va diviso: chi produce il carburante da chi lo vende al dettaglio. Non ci può essere l'obbligo di chi vende al dettaglio di acquisto del carburante solo da una compagnia che fa il prezzo che vuole, e quando le grandi società petrolifere sono 7, 8, 10 fanno il prezzo per tutti e non ci sarà mai concorrenza e non ci sarà mai diminuzione dei prezzi. Noi dobbiamo arrivare ad una divisione, questo governo stava cercando di farlo, poi gli è saltato come sono saltate tutte le altre liberalizzazioni purtroppo, ma quando questo avverrà e quando il distributore potrà acquistare il carburante sul mercato libero, avverrà come con le pompe bianche, un prezzo inferiore di 8, 10, 12 centesimi rispetto al resto. Sento Moretti, se è d'accordo. Moretti, se aveste questa libertà sarebbe meglio per voi? No, non sono assolutamente d'accordo. L'estensione di questo modello significherebbe che i gestori verrebbero mandati via dagli impianti che sono di proprietà delle aziende petrolifere e d'altra parte tutti dovrebbero farsi carico dei costi generali di sistema, di logistica e delle problematiche della raffinazione. Quel che è peggio comunque in tutta questa questione, le tasse non caleranno, le tensioni internazionali sono pesanti. Se già ci liberassimo delle accise sulla guerra di Abissinia del 35 sarebbe un gran risultato. Quelle ormai sono state messe dentro nel 2004 o nel 95, non mi ricordo bene. In ogni caso il problema è che non si intravede una via d'uscita da questa situazione, e la cosa peggiore di tutte è che alla fine di tutta questa giostra, su 1,8 che costa la benzina, i margini reali rispetto a cui poi si pagano le tasse, sia delle aziende petrolifere che fanno distribuzione, sia del gestore, alla fine sono 2,5, se va bene, centesimi, che vuol dire l'1,5 del costo che viene pagato. E allora bisogna che vi mettiate tutti insieme e andare a fare due chiacchiere serie con il governo per rivedere drasticamente la composizione del prezzo del carburante sul fronte accise, perché qua non è che possiamo pagare tutti quanti le conseguenze, non è che glielo dico come monito ovviamente, magari un suggerimento, ma qua davvero non riusciamo a debellarle, anzi piuttosto se ne aggiungono altre, ci possono poi anche le addizionali regionali, perché molte regioni sono intervenute anche lì per fronteggiare altre problematiche interne. Detto questo, voglio sentire Maurizio da Treviso in 12 secondi, perché poi vado a Mazza. Maurizio, lei ha fatto una prova, ha utilizzato la benzina di Mazza. Ho fatto una prova, parlavate di prezzi. Sì. Io ho fatto una prova tra una nota marca... Tanto sono poche, le conosciamo tutte bene. Quindi una pompa bianca, quelle che praticamente sono di privati, e anche una praticamente gestita da un ipermercato. Allora, risultato? Risultato molto semplice. Spendendo poco di più di quella nota marca, la resa che ho fatto in chilometri per parità di litri è stata maggiore. Ha fatto proprio un esperimento per vedere addirittura... Sempre 8 litri, tanto il percorso che faccio io sono più o meno sempre quello, quindi non è che faccio autostrada piuttosto che cittadino, eccetera. Faccio sempre quello per andare a venire al lavoro e quant'altro, e la differenza poca di prezzo è però molta di resa. Grazie Maurizio. Non riesco a far intervenire Tiziano da Brescia, che voleva raccontarci che ha fatto il pieno a Monte Carlo e ha pagato meno anche che in Italia, ma non è molto conveniente fare anche questi lunghi tragitti per andare a trovare risparmi, bisogna orientarsi intorno a casa. Mazza, concedo la conclusione a lei, Oshan, in 20 secondi. Allora, per chi si lamenta che la benzina che offrite voi distributori indipendenti, che vi chiamo così in termini generali, sia di qualità inferiore, che cosa mi risponde? Beh, la nostra viene dalle principali aziende produttrici, quindi è sempre la stessa, sulla quale riuscite a negoziare il prezzo, per cui adesso bisognerebbe capire bene a Maurizio che cosa è successo. Storchi mi deve perdonare, sul metano ci ritorniamo un'altra volta, glielo prometto, e accontenteremo anche tutti gli ascoltatori che volevano naturalmente intervenire su questo argomento. Grazie a tutti, Salvadanaio torna domani, buona giornata.